stai ascoltando Radio Onda Rossa. Eccoci qua, Disordere alle 22.08 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Appuntamento consueto del lunedì sera, incentrato su pillole gothic e soprattutto molta molta elettronica. 0649 1750 il contatto telefonico, il sito internet www.ondarossa.info e l'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Vado a ricordare le modalità di sottoscrizione, e questo è un periodo che la radio ne ha assolutamente bisogno, per cui 61 80 40 01, il conto corrente postale che va intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Volsci 56 00185 Roma. Nel sito si possono trovare anche le modalità, diciamo, più elettroniche, il PayPal, attraverso la carta di credito. E infine vorrei ricordare anche la presenza qui in radio della nostra più famosa autoproduzione, la Scarceranda, a 8 euro. Per cui si può anche passare qui in radio a ritirarla. 16 novembre 2015 è lunedì, e quindi dopo il sottoscritto ci sarà Todos intorno alle 23.15-23.30. Si va ad iniziare, lo facciamo anche per questa sera, con questo splendido e ultimo lavoro per i Killing Joke, icona storica del post-punk in attività da 35 anni. Si chiama Pylon, un doppio CD, e noi ci ascoltiamo New Jerusalem e War on Freedom. another more cut the top job, selling out to corporations. Culture, adult entertainment, calibrated to dunder. Big blesses, strict beaten dancing, and everyone was dancing round and round. Stage, set a regulation and it's a 3 anni di distanza dall'album che portava il nome stesso dell'anno in cui uscì, ossia 2012, esce questo Pylon, doppio monumentale CD di impatto e spessore notevolissimo. Jazz Kaleman in grandissima forma alla voce, Gordy Walk, Youth e Paul Ferguson, formazione più o meno storica. New Jerusalem, War on Freedom. È da sottolineare che oltre alla qualità eccelsa della musica, anche a livello di composizione, di liriche, il tutto è sicuramente da menzionare. Killing Joke. E i Killing Joke sono stati probabilmente ispirazione anche per moltissimi gruppi italiani odierni, e non solo. Ci siamo goduti la scorsa settimana, le scorse settimane, di Dystopian Society, il gruppo di Firenze. Questa sera è il turno dei Beyond Soul, gruppo parzialmente italiano, con componenti in Sicilia, ad Amsterdam, eccetera eccetera. Una delle novità, diciamo, del panorama Dark Wave, tanto per dargli un'etichetta proprio qui dalle nostre parti. E quindi le andiamo a conoscere, cominciando con ascoltarci l'ultima traccia dell'EP di esordio, credo di 2 anni fa, dal nome Ethereal, che si chiudeva con questa The Dreamers. E subito ci ascoltiamo invece un nuovo singolo che farà da apripista a un nuovo lavoro che uscirà a breve, ossia Passion Black Dimension. Ancora Beyond Soul, questa è l'ultimissima uscita, ordunque questo Passion Black Dimension, pace Beyond Soul. Onda Rossa 87.9, Disorder. Yeah. Beyond Soul, dunque questa nuova realtà italiana, un paio di passaggi per loro, un gruppo che andremo ad apprezzare e a conoscere meglio anche nelle prossime settimane, soprattutto l'EP Ethereal, al momento l'opera più lunga da loro composta. Infatti parleremo anche di Mark alla voce, Curtin alla chitarra, Gordon al basso e Lux, presenza femminile al sintetizzatore e alle tastiere. Questi sono i quattro componenti dei quali spero anche di avere notizie maggiori. Lasciamo Beyond Soul e andiamo in Grecia. Visti recentemente qui a Roma, questi sono i Cellophane, un duo proveniente proprio da Atene. Qui già ci siamo inoltrati in un territorio più elettronico, quindi electro minimal dark wave. Questo è il loro ultimo lavoro dal nome Tristesse, proprio del 2015. Ci ascoltiamo questa Der Steppenwolf, Ich kann dich sehen e Weaker for you. E intanto si va a salutare Serena in ascolto. Wir haben uns gefunden in des Äthers sternlich glänzten Eis. Kennen keine Tage, keine Stunden, sind nicht mehr noch weit. Kennen keine Tage. ancora Cellophane, sui quali andiamo anche a salutare Mario, sempre qui da Roma. A quale interessava i titoli dei precedenti Beyond Soul, dunque li ripeto, The Dreamers, da Ethereal, l'EP precedente, un ultimo singolo, una prepista diciamo, dal nome Passion Black Dimension. Where are your painkillers? Where are your absence? Where are your solitude? Where are your company? Invece loro dalla Grecia, ripeto, Cellophane. Naturalmente vuol dire cellophane, in greco presumibilmente. We care for you, cellophane. And we care for you. Andiamo a salutare anche Gabriele, vecchia conoscenza qui di Radio Onda Rossa, degli spazi sia di disordine sia di prove tecniche di trasmissione. 22:44, in onda fino alle 23:15 circa. E questo dunque era Tristesse, ultimo lavoro per i greci Cellophane. Nella persona di Dimitris Pavlidis e Johanna, qui priva di cognome. Salto geografico non indifferente, andiamo addirittura in Giappone, in piena scuola IBM Old School. Loro sono i DRP. E questo è il primo lavoro del 90 addirittura, Electro Brain. Poi c'è stato un secondo lavoro del quale parleremo più avanti. Da Electro Brain la traccia che lo va ad aprire, Brain Hunter. Deutsch Reichen Patenten, ossia DRP, progetto in realtà proveniente dal Giappone. Questo era Electro Brain, un album, l'album di esordio del 90. Tomoyuki Murastige Kuniyuki Takahashi, giusto per divertirci un po'. Poi scese l'oblio su questo duo giapponese per essere riesumati nel 2015 dalla coppia magica Eric Van Bontergem e Dirk Evans, artisti che spesso mandiamo qui in radio attraverso i loro progetti, ossia Sonar, Absolute Body Control, Clinic, eccetera, perché loro due hanno avuto il buon gusto di riesumare Peace Offensive, un secondo lavoro che praticamente non uscì all'epoca e che è stato rimasterizzato e riproposto di questi tempi attraverso la Daft Records, etichetta proprio di Dirk Evans. Tornando invece a Electro Brain 586, questo è il titolo completo, uscì anch'esso con una label belga, la Body Records, Deutsches Reich Patent. Mi sembra evidente il riferimento al trittico From 242, Nitzer, Ebb e Duff come principali fonti di ispirazione. Ci siamo ascoltati Brain Hunter. Qui invece ci inoltriamo in territori più tecnoidi e Rhythmic Noise. EASA, Electronic Substance Abuse. Ultimo lavoro, Teams on Carnal Empowerment, Part Number 3, Peanuts. E questa è My Church. Un saluto anche a Francesco in ascolto. IESEI. the purity of the soul. The body is poisoned.